rischio storico che Prodi formula, un rischio storico assai problematico, sulle forme attuali del potere e della politica in Italia contemporanea, dove propone un'interpretazione rispetto alla quale io ho alcuni elementi di significativa differenziazione. Io non affronto problemi di tipo metodologico, innanzitutto mi soffermo sull'ultimo capitolo che unisce, raccoglie nel titolo, le due categorie, futuro e passato, che lasciano chiaramente intendere l'intenzione dell'autore, cioè un lavoro che ha inteso cogliere radici assai risalenti fino alla civiltà classica di un istituto politico, quello del giuramento, che è snodo tra il sacro e il politico, per cogliere le trasformazioni fino al presente e vederne le prospettive future. In ciò è certamente vicino all'interpretazione di un arco storico, cioè di cos'è l'etica del futuro passato, indica con chiarezza il compito dello storico, cogliere le radici di movimenti di trasformazione assai risalenti, ma con lo scopo di cogliere e di percepire gli effetti, gli esiti presenti e le prospettive. Non c'è ovviamente in questo tipo di approccio alcuna filosofia della storia, nessuna filosofia della storia, perché l'intento dell'autore è chiaramente storico costituzionale, come è stato più volte ribadito nelle numerose discussioni e recensioni, secondo un modello che chiaramente fa riferimento ad autori come Lince, Dunner e De Caffè. Allora comprendo anch'io questo tipo di problematiche, questo tipo di modello storico, costituzionale, per individuare però alcune specificità interne. Innanzitutto mi soffermo sulla complessità del concetto di costituzione, autore come Lince. Costituzione è l'insieme delle forze sociali e politiche, delle ideologie, delle dottrine di cui esse si fanno portatrici e delle istituzioni in cui queste dottrine infine si cristallizzano, infine trovano la loro soluzione. Vedremo come il modello di Prodi è anche più complesso di questo tipo di prospettiva metodologica di Lince. Si comprende allora subito la complessità delle discipline di questo tipo di approccio che mette in gioco. Pluralità delle dottrine storiche, le dottrine scusate, giuridiche, politiche, teologiche, la storia del diritto, la storia delle istituzioni e financo la storia sociale, così come le intendono. Affronto in modo particolare un aspetto all'interno di questa concezione della storia costituzionale, cioè il rapporto tra le dottrine, segnatamente le dottrine politiche, e la storia costituzionale. Qui la proposta di Prodi è decisiva, cioè le dottrine politiche vanno forte nella loro rilevanza per la storia costituzionale. Occorre cogliere cioè le dottrine politiche nella loro rilevanza, cioè nelle prestazioni che hanno prodotto rispetto alla storia costituzionale, evitando qualsiasi concezione della storia delle dottrine come storia delle idee, intesa come una insorgenza, ma per quale motivo, delle dottrine, che poi vengono superate chiaramente da altri, risultando al tempo stesso l'appiattimento della storia delle dottrine in una mera filosofia politica. Nella ricostruzione di Prodi non c'è mai una interrogazione sulla essenza del giuramento, sulla essenza del potere, ma sempre il giuramento, il potere viene posto come istituto giuridico. Questo è decisivo per cogliere il corpo. Cogliere per esempio la ragione per cui questi arcani ecclesi, per dire che ancora diventano arcana impero, passando attraverso proprio l'analisi dell'istituto giuridico. E questo evita al volume di Prodi, all'opera di Prodi, di cadere nelle segni, rendono inspiegabili questo tipo di processo di autori che sono più così successivi come Churchill. Noi studiamo per esempio i processi della secolarizzazione. Cioè diciamo una successione di dottrine, ma non comprendiamo la ragione per cui si verifica gradualmente il passaggio da una fondazione teologico-politica a una fondazione giusnaturalistica. Quello è proprio il medium rappresentato dall'istituto giuridico che permette questa transizione, questo trapasso da arcana e chiesa ad arcana impero. persistere o intramontare di strutture, ossia forme costituzionali, di rapporti di produzione, di modi di sovranità. Credo però che in realtà questo sia possibile ancora una volta e unicamente solo all'interno di una storia, costituzionale. Allora l'opera di Prodi può essere detta non solo, come si vede nel sottotitolo, storia costituzionale, ma storia di un concetto della prima prospettiva storica costituzionale, storia del concetto di giuramento e della prospettiva storica costituzionale. Storia cioè del mutamento di significato del concetto di giuramento e della storia costituzionale. E noi sappiamo quanto sia decisiva, quanto sia stata decisiva la storia dell'Occidente, la lotta per il concetto come fondamento di progetti politici, lotta cioè per l'affermazione di un significato, di un concetto contro altri significati di concetto. Pensiamo per esempio al significato di giuramento della Chiesa riformata o al concetto di giuramento da parte della setta dei Trappisti o il concetto di giuramento da parte dei comunitari del Gilberto del primo Seicento. Allora si comprende da questo punto di vista come possa essere rilevante tutta la storia del potere politico. Questo diventa un angolo prospettico formidabile, cioè diventa veramente questo tipo di prospettiva permette delle originali, come dicevo, significative innovazioni rispetto alla lettura della storia del potere politico. Allora si comprende la rilevanza che ha la dottrina, che certo hanno avuto certe dottrine politiche, il potere della nascita dello Stato moderno, l'epoca nella quale, come dice giustamente Prodi, portando sempre, quello che è sorprendente è che quasi ogni pagina non c'è narrazione, cioè ogni pagina porta la storia a livello del concetto, storia per concetto, c'è una costante concettualizzazione, così l'epoca, la formazione dello Stato moderno è vista come un passaggio da questa struttura bilaterale del giuramento su un fondamento metapolitico a una struttura lineare del giuramento, dal sovrano a Dio, dal popolo al sovrano. Ecco, questa concettualizzazione è esemplare e significativa di questo qua, che permette una lettura originale dei classici, cui sono stati scritti letterature straordinarie. Penso alla rilettura che per esempio fa dello stesso autore difficile come Spinoza. Trattato peraltro, devo dire qui, sento come un teorico della monarchia, in qualche modo, ma è significativo il passo che Prodi mette in testa, dove dice appunto che Spinoza nel trattato politico invita in sostanza coloro che sono tutti a giurare per legge, a giurare non nel nome di Dio, ma per la libertà e per la salvezza della patria. Modo inviando il giuramento nel nome di Dio a una sfera del tutto privata, una sfera del tutto privata. Infatti se leggiamo le cose dice Spinoza al riguardo, dice infatti colui che giura per Dio fa intervenire il bene privato, quindi compare questa immagine di Stato ormai già tagliato sulla strada della secolarizzazione che è via che rispetta lo spazio della coscienza individuale. E c'è certamente in questa interpretazione di Spinoza tutta la percezione della fine dell'anomalia olandese dopo il fallimento della Repubblica. E c'è il tentativo di una dottrina per appunto di Spinoza di piegare il potere alla libertà intesa proprio come potenza della moltitudine, una visione in modo democratica. Che la lettura attraverso la struttura di giuramento illumina in modo assai significativo. Per non dire poi di non so, dato giustamente anche dall'Allegretti, che è anticipatore di una svolta costituzionale, un percorso estremamente significativo, ma infine credo di poter dire che su questo, però se lo dirà Prodi, il suo giudizio infine è negativo, la fine giudizio sul suo decisamente negativo, di quell'orientamento storico costituzionale che trova e che si snoda poi dai Giacobini fino all'esperienza delle democrazie del socialismo reale. O ancora, sempre nella storia delle dottrine politiche, ho originale rappresentando la lettura di un autore come Kant, la rivoluzione copernicana di Kant viene detta attraverso il giudimento, in sostanza è Dio che trova la sua forza e la conferma della sua esistenza attraverso la necessità del giudimento. In questa maniera il problema di Dio viene riletto attraverso questa prospettiva estremamente originale, il Dio negato e introdotto come istanza della ragione pratica. Ma di Kant viene detto qualcosa di più che ci permette di passare ad un altro campo, ad un altro tipo di questione che mi sta particolarmente a cuore nel tempo coloniale e che, dico, arricchisce la prospettiva della storia internazionale, della narrazione che dice giustamente, proprio per Kant il giornamento è l'unica possibile intersezione dalla coscienza religiosa individuale e i comportamenti sociali. Bisogna poter dire che il messaggio di Prodi sia costante questa attenzione alle forme della coscienza, alle forme della coscienza. L'analisi delle trasformazioni dottrinali, delle trasformazioni istituzionali e insieme analisi delle forme della coscienza e del loro controllo civile. Non potrebbe essere diversamente, perché al fondamento di ogni dottrina c'è sempre una precisa antropologia, una precisa rappresentazione delle forme della coscienza, una precisa antropologia da cui vengono dedotti i principi della cultura. Quindi l'opera di Prodi, la prospettiva della storia costituzionale si arricchisce in modo estremamente suggestivo anche con questa prospettiva antropologica, creando questo nesso estremamente significativo, dottrine, istituzioni e antropologia politica e religiosa. Pare connesso in un modo inestricabile, secondo nessi complessi, dove le dottrine anticipano svolte istituzionali e formano le coscienze disciplinandole nella funzione della legittimazione, oppure scontrandosi con esse dove aspro conflitto dottrinale. Penso soprattutto a tutto il volume tratta questo. Ma il rifiuto di Thomas Storia in Inghilterra è un esempio di questo. Il rifiuto di un giuramento, dice Prodi, è chiave di passaggio tra la sfera della coscienza e la sfera del potere. Il giuramento è strumento spirituale di verifica della visione politica, strumento per la disciplina sociale e religiosa. Pare qui appunto, infine, questa decisiva, la più rilevante delle prospettive che trovato, secondo questo è stato sottolineato più volte, ma non posso fermarmi ancora una volta su questa questione, tipo dualismo di Prodi di matrice ebraico-cristiana, questa costante tensione tra la coscienza e il potere. E questo dualismo è trattato però non in forma dottrinaria, ma in relazione a diritti costituzionali. Il dualismo cristiano è estremamente connesso infatti con la desacralizzazione dell'ordine politico, cioè con la sua secolarizzazione, cioè con la sua secolarizzazione. Questo nesso rimane tuttavia problematico. Esso è stato condizione per, c'è un rapporto di causalità, determinazione diretta, condizione per la progressiva secolarizzazione. Ecco qui, certamente Prodi è assai vicino alla lettura che Beppe Ferro ha fatto di questo problema, ma devo dire sicuramente con una maggiore attenzione e un maggiore approfondimento. Due sono in Prodi e Beppe Ferro i momenti in cui si verifica questo processo di secolarizzazione della storia dell'Occidente. Il primo momento è l'opera per le investiture, il secondo momento, la seconda fase invece, presentata dallo Stato che esce dalle guerre civili confessionali, quindi a partire dalla seconda metà del Cinquecento e trova poi nell'opera dottrinaria di Thomas Hobbes soprattutto la sua consacrazione teologica. Ecco, innanzitutto molto rilevante mi sembra questa collocazione così risalente della secolarizzazione, processi secolarizzazione. Dico, in relazione all'opera di altri, come ad esempio Luther, che invece colloca approdi perché Freud sviluppa un'analisi sul denaro o sul concetto, ma anche istituzionale, una storia costituzionale che permette questa collocazione così risalente degli indizi del processo di sicurezza. Quindi a questo punto di vista c'è certamente una rilevante differenza storiografica. E decisivo è l'approccio che entrambi conducono su questo problema degli indizi della secolarizzazione. Perché certamente nel momento in cui l'epoca delle investiture, delle lotte per le investiture, certamente la proclamata supremazia del potere spirituale su quello secolare, è tuttavia limitato, come dire, razione peccato, cioè alla osservanza da parte del potere fisico dei comandamenti cristiani. Quindi c'è in qualche modo un'autolimitazione del potere ecclesiastico, ciò comporta necessariamente il riconoscimento dell'autonomia del potere economico. In qualche modo inizia qui la secolarizzazione in via di principio del potere. E al tempo stesso, proprio in questo sviluppo parallelo, questa polarizzazione di potere secolare, di potere spirituale, certamente c'è questo trapasso di modello, questo passaggio di modello della sovranità del potere ecclesiastico diventa modello per la sovranità del potere secolare. E qui torna certamente la grande lezione di Otto Hinz, e qui certamente siamo nel pieno dell'acquisizione della grande storia. La seconda fase, molto brevemente, conosciutissima, è certamente quella della piena affermazione seconda fase della secolarizzazione, è appunto l'inizio dello Stato moderno, uno Stato che esce dalle guerre civili, confessionali, che però appunto è l'opera di Hobbes, dicevo, questa consacrazione, perché noi se troviamo questa recta ratio che è detta la legge di natura, e questa recta ratio non è assolutamente una ragione che ha sul movimento la fede né la fede, ma ormai è una ragione ovviamente utilitaristica funzionale. Ecco il punto. Così qui certamente letto in questo modo troviamo una conferma della letteratura politica su Hobbes. Hobbes allora può demolire, scrive Prodi, i giuramenti, perché la sacralità dell'azione politica è dedotta, cioè è dedotta in sostanza non dal contratto, ma dalla natura stessa. Da allora, dopo questa importante svolta, tutta la storia delle dottrine politiche ormai registra, riflette questa accessorietà del giuramento. Penso soprattutto a Kufner, penso a Tomasius, siamo alla fine del 600, perché si scopre evidentemente una religione naturale. Il giuramento diventa accessorio rispetto ad un patto stipulato secondo le leggi di natura. Uffedorf è un'opera della fine del 600, De Habitu Religionis Christiane ad Vitam Civilem, è favorevole alla proclamazione di chiara pubblica formula fidei, una specie di simbolo di una vagheggiata religione naturale di fronte alla difficoltà di individuare la vera religione, se esce così, il conflitto devastante delle guerre di religione. Così Uffedorf e così Tomasius. E noi sappiamo quale importanza abbia avuto poi Uffedorf, addirittura nelle colonie americane, la sua opera viene tradotta e diffusa nelle colonie del Nord America e contribuisce a diffondere i principi della tolleranza e della libertà di coscienza. Anzi, si può proprio dire che, in qualche modo, il grado di affermazione della libertà di religione, della libertà di coscienza, sia il criterio per valutare la secolarità, il grado di secolarizzazione del potere. E con questo tocchiamo, ci avviciniamo alla contemporanea, tocchiamo un nodo cruciale che io in qualche modo tendo a forzare rispetto al volume di Prodi, cioè il rapporto, giuramento diritto. Solo giuramento libertà, giuramento diritto. Questo nodo complesso ci porta in piena età costituzionale, l'età delle prime costituzioni, appunto del Nord America, E qui certamente il volume di Prodi entra nel novero di quella grande letteratura alla quale appartengo certamente da questo punto di vista, per questa ricostruzione, l'opera di Troce, l'opera di Ruffini, penso al suo volume sulla libertà religiosa del 1901, che dire che rispetto all'opera di questi produttori, il volume di Prodi si differenzia proprio perché essi hanno invece un approccio che è eminentemente dottrinario. Anche Ruffini, così dire, che Ruffini fa una storia di idea religiosa dall'antichità, ma non c'è un'attenzione agli aspetti istituzionali della costruzione. E una letteratura da quale partire anche però l'opera di Jelinek, però mi sembra di poter dire che poi non ha molta simpatia, che invece è forse l'autore che dal punto di vista della trattazione di questi problemi della di secolarizzazione, affermazione della libertà e dei diritti, è quello che più di altri ha condotto l'analisi di una stretta connessione tra, e soprattutto la sua polemica, Butmi, a proposito se i diritti siano stati introdotti prima nelle colonie oppure nella rivoluzione americana, se siano della rivoluzione francese, se sono originali quelli americani, se sono quelli francesi e così via. Però c'è Jelinek, che è l'autore che più di altri ha connesso, ha legato dottrinaria e istituzionale. Dunque il tema giuramento e coscienza, giuramento e diritto, un tema centrale che Prodi svolge a partire in modo particolare dalla vicenda dei puritani in Inghilterra del primo 600, nel loro rifiuto al giuramento richiesto da Giacomo I. Bisogna poi vedere questa è una storia che continua, ci siamo soprattutto i dibattiti in seno all'esercito di Cromwell, dove le posizioni degli indipendenti e dei ribelli si battono per l'affermazione della libertà di coscienza contro il paventato accordo della monarchia, anche se già battuta di piano primo, e il Parlamento che avrebbe portato alla soppressione di questa libertà di coscienza. Tutta altra cosa invece nelle colonie, ecco qui, nel senso che i puritani in Nord America tendono invece a stringere, stabilire la connessione tra patto politico e patto religioso. Penso alla teocrazia puritana del Massachusetts, per esempio. E infatti la democrazia americana non trova lì il suo fondamento, ma nel rifiuto piuttosto da parte dei movimenti, come appunto quello dei battisti, che invece creano, rivendicano il principio ancora una volta della tolleranza e della libertà e della libertà religiosa, che è soprattutto il grande episodio della di Providence e del Rhode Island, delle prime carte che affermano l'esistenza e la necessità di porre un governo democratico proprio sul principio della piena libertà religiosa, che è il primo dei diritti di libertà. E qui Prodi coglie benissimo il punto, perché dice così: le colonie americane nella ricerca di leggi fondamentali cui sottomettere il potere dello Stato approdano alla formulazione di carte costituzionali, e danno vita a una democrazia che ha potuto svilupparsi proprio dopo il fallimento di ogni tentativo di identificare patto religioso e patto politico. È una suggestione importante anche per il pieno dibattito sulla teoria contemporanea della democrazia. Noi siamo nella piena contemporaneità di fronte agli interrogativi inquietanti che già ricordare appunto lì che ritroviamo nella parte finale una osservazione, vorrei dire, questa incidentale rispetto alla differenza che poi giustamente sottolinea tra fedeltà alla Costituzione e giuramento di fedeltà al sovrano, un riferimento particolarmente alla Germania del secondo 800, un modo molto originale secondo me di rileggere quel conflitto tra borghese e soldato che già lo stesso Schmitt aveva proposto in un saggio famoso. Vengo alle tesi finali, quelle più problematiche, dove io dico subito che mi sento dalle soluzioni, dalle proposte di soluzione di interpretazione che si trovano in questo lo Stato democratico di diritto, cioè lo Stato costituzionale, è il risultato della desacralizzazione che si proponeva anche Troce. La democrazia, la democrazia americana che nasce sul fondamento religioso può reggersi dopo la perdita o in seguito alla secolarizzazione di quel fondamento. Se il giuramento può essere interamente assimilabile all'interno di un ordinamento giuridico positivo, vuol dire che Prodi abbandona a un certo punto una pagina finale di grande tensione intellettuale il terreno della storia costituzionale, quello cioè dove si chiede, con la domanda che appartiene un po' alla filosofia politica, se vi sia un trascendente presupposto nella coscienza al quale ancorare il giuramento, quindi abbandonare il terreno della storia costituzionale. Io invece ritengo che ci si debba, questo invece è un interrogativo per l'autore, invece mi attengo al percorso della storia costituzionale per tentare qui una riflessione sul problema dello Stato costituzionale. L'affermazione del principio della tolleranza e della libertà di coscienza hanno ridotto in giuramento una dichiarazione solenne. Questo è certamente l'orientamento in tutte le democrazie, la democrazia del secondo dopoguerra, e soprattutto la Germania, dove è stato rifiutato di introdurre nella Costituzione, nel Grundgesetz del 49, la nozione di Stato cristiano, e penso soprattutto alla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, che costantemente ha salvaguardato la libertà di coscienza e la libertà di opinione religiosa, e ha condotto per questa strada, e parallelamente, vuol dire, ha affermato una graduale laicizzazione della forma di ordinamento. Il Prodi ricorda infatti una sentenza fondamentale dell'aprile del 72, dove si legge che il giuramento non ha, secondo la concezione del costituente, alcun riferimento religioso o trascendente. Quindi laicizzazione di questa forma di giuramento. Certo, la desacralizzazione del potere comporta il rischio di una sacralità immanente dello Stato. È evidente, no? In questo modo l'ha sviluppato in maniera esemplare. Dell'origine in qualche modo del totalitarismo di questo secolo, però al tempo stesso ripropone in qualche maniera contro questo rischio di una sacralità immanente del potere, sacralità immanente, di sacralizzare il potere reso ormai solo immanente, ha opposto la soluzione di un sacro, cioè dimensione ecco, metapolitica trascendente, cioè rispetto ai oppure, e anche questo però mi rimane abbastanza problematico, un'etica, ma quale a questo punto, una dinamica tra etica e stabilità del comportamento. Non basta, dice, il richiamo dei carte costituzionali, non basta il richiamo dei diritti. Certo, non basta. Ma che cosa sono le nostre democrazie? Proprio a seguito di questo straordinario processo di secolarizzazione. Se sono essenzialmente un conflitto tra valori e sono un contrasto tra diritti che può reggersi soltanto sulla base di una omogeneità sociale. Omogeneità sociale che non è soltanto omogeneità economica, ma è soprattutto omogeneità culturale, cioè praticamente una, come scriveva Heller, l'epoca tragica di Weimar, una coscienza del noi, questo il bewusstsein. Coscienza dei diversi valori, dei diversi diritti e accettazione reciproca di queste differenze, dando così la possibilità di una identità collettiva. La democrazia, come ci mostra la storia costituzionale di questo secolo, è stata anche un processo di apprendimento. Anche dire la democrazia è anche un processo di apprendimento. Questo ritengo di questa natura, cioè di questa omogeneità. Questo credo non si possa più ritornare, magari sia costantemente presente nei giornali tedeschi, anche oggi, un ritorno a Weimar, per esempio. Ma che cos'è questa cultura della democrazia? Cos'è questa cultura della democrazia? Adesso certamente appartiene il neocontrattualismo, cultura del neocontrattualismo, dietro il quale non c'è tanto Rousseau. Differenza di liberazione che non c'è tanto Rousseau, diritti assicurati dalla partecipazione politica e progressivamente affermati sia nel diritto pubblico interno che nel diritto internazionale e anche in ciò che Kant chiama diritto cosmopolitico, cioè chiamare il diritto cosmopolitico alla fine del Settecento, intendendo non le relazioni degli Stati, ma le relazioni degli individui e gli altri Stati di non appartenenza, in cui ci sono certamente in qualche modo delle significative conferme, penso soprattutto alla Carta dei diritti del 1948. E questa visione culturale e mentale dell'umanismo che oggi può diventare la cultura della democrazia e il suo fondamento, oltre il cuore lasciato dalla bella definizione del giuramento. Thank you.